testa, non ne ho mai messa. Quindi scientificamente non dovrei poter fare niente. Ma c'è un vecchio cane pazzo a cui devo pagare l'affitto. E di pane non ne ho più. Quel bastardo mi si attacca diritto all'osso. Per altezza mi ha mollato per uno sciampista. Lascio il tempo che trovo e trovo il tempo per fissare il muro. Come adesso e com'era, niente, metti, togli la cera. Lascio stare almeno per stasera. Ma c'è un vecchio cane pazzo a cui devo pagare l'affitto. We'll be right back.